si battu Joe. I don't know. Ci si trova nei vicoli ciechi a rincorrere i nostri sguardi felici, persiane blu nei balconi, limoni si specchiano nelle acque dei fiumi, nelle piazze cantano canzoni, i contadini sono faraoni, pittori ricamano acquarelli e fanno a gara chi disegna i più belli. Una storia come un gambero al contrario, qui si è fermato l'ultimo treno, l'ultimo binario, l'ultimo sigillo di una patria senza padre né figlio, senza più una camicia nera da sventolare né una guerra da incorniciare. È finita con un massacro quella memoria, l'altra Salò è un'altra storia. Lungo le rive del Garda non c'è più inferno né paradiso, non dimentico nulla del passato, oggi abbraccio il tuo sguardo, il tuo viso, sento il profumo nei campi, primavera nella brezza dei venti, Salò oggi è un oceano di fuoco, un mare di limoni e fiori rossi sul lago. Oh, baby, oh, baby, baby, baby, baby. Sento il profumo nei campi, primavera nella brezza dei venti, Salò oggi è un oceano di fuoco, un mare di limoni e fiori rossi sul lago. Lontani da Roma, lontani dalla Cappella Sistina, vicini alla bella Verona, tra le papere e le montagne di schiuma, di una birra che scende giù a valle, dove si sente l'odore delle stalle, del fieno grezzo e delle cavalle, che partoriscono meravigliose figlie. Non dovrebbero esistere frontiere, per chi ha in mente un mondo universale, dovrebbero esistere solo parole che allontanano le persone dal dolore. Nelle fontane ai bordi del castello, le lavandaie hanno pagato un caro prezzo, una vita a bagno con il cuore a secco, a lavorare come schiave in affitto. Lungo le rive del Garda non c'è più inferno né paradiso, non dimentico nulla del passato, oggi abbraccio il tuo sguardo, il tuo viso, sento il profumo nei campi, primavera nella brezza dei venti, Salò oggi è un oceano di fuoco, un mare di limoni e fiori rossi sul lago. Sento il profumo nei campi, primavera nella brezza dei venti, Salò oggi è un oceano di fuoco, un mare di limoni e fiori rossi sul lago. Sul Garda che sembra quasi un mare, c'è un microclima, una temperatura bestiale, una vegetazione che colora le nuvole, una natura che si nutre di favole. Nelle scuole sanno insegnare il respiro, mille stelle disegnate con un abiro,